Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Meris. Abbiamo parlato proprio ieri sera dell'agenda digitale, di come essa preveda una forte informatizzazione anche nel settore della sanità, con la nascita del fascicolo sanitario elettronico e delle ricette digitali. Ecco allora che stasera vogliamo farvi un esempio di come la penetrazione delle tecnologie informatiche in ambito sanitario, unita alla capacità di fare innovazione, possa portare a nuovi modelli di assistenza sanitaria più efficaci, meno soggetti ad errori, più attenti alla persona e anche capaci di generare ricchezza economica. Il progetto di cui vogliamo parlarvi questa sera nasce in un settore, quello dell'oncologia, peculiare anche rispetto alla maggioranza degli altri ambiti in campo medico. Il progetto si chiama Closed Loop ed è in corso all'ospedale regionale di Bolzano, dove per parlarcene qualche giorno fa ho incontrato il professor Claudio Graif, primario del reparto di oncologia. Sentiamo com'è andata. Il progetto va inteso in relazione alle problematiche specifiche che ha la somministrazione dei farmaci e il trattamento in oncologia medica, laddove si utilizzano delle preparazioni che sono pressoché sempre personalizzate, cioè non si usa una confezione del commercio per trattare un ammalato, ma si diluiscono i farmaci in maniera tale da raggiungere una certa dose e una concentrazione, diciamo così, diversa da paziente a paziente, secondo dei parametri deve essere valutati. Lei spiegava addirittura che una variazione del 10% in più o in meno nel dosaggio, cosa che per esempio con gli antibiotici o con un'aspirina assolutamente non accade, può invece avere detrimentale sul risultato o indurre tossicità maggiori sicuramente. Quindi è indispensabile accuratezza e precisione. È un processo molto peculiare che già oggi viene svolto con l'ausilio di apparecchiature. Esistono anche delle apparecchiature assolutamente automatiche. Quello che noi adesso vogliamo fare, il progetto che chiama Closed Loop proprio perché vuole chiudere il cerchio, è quello di estendere l'automazione a tutta la fase non solo di produzione del farmaco ma anche di somministrazione fino allo smaltimento delle rimanenze e anche di gestione clinica dell'ammalato durante il trattamento. Questo perché questi farmaci si accompagnano a tossicità rilevanti, a volte a reazioni acute. Alcuni di questi farmaci richiedono un monitoraggio abbastanza intensivo, non invasivo per carità, però abbastanza intensivo dell'ammalato, e finora i sistemi che ci consentono da un lato di somministrare i farmaci e variarne eventualmente anche la velocità di somministrazione o interrompere per qualsiasi motivo la somministrazione, dall'altro di acquisire i parametri di monitoraggio, sono sistemi che non dialogano tra loro in modo compiuto. In più, né quelli di somministrazione né quelli di monitoraggio hanno accesso diretto alla cartella clinica, quindi io riporto sulla cartella dei dati che poi non sono in grado di dimostrare sotto certi aspetti, perché comunque li ho letti e li ho trascritti, mentre tutta questa automazione è uno degli aspetti, non l'unico, però è uno degli aspetti qualificanti, cioè l'integrazione tra l'automazione nella preparazione e somministrazione dei farmaci e il monitoraggio clinico dell'ammalato e la tracciabilità dell'intero processo. Quindi insomma voi avete messo in piedi un sistema informatico ed automatico in modo tale che per esempio non ci sono dati duplicati o errori di copiatura banali, ma immagino anche in modo tale che una persona un domani possa spostarsi in un'altra struttura e ricevere esattamente la cura di cui ha bisogno. Questo è uno dei vantaggi che si hanno. Quali sono gli altri? Beh, un altro vantaggio per esempio è che alcune azioni possono essere o messe in atto, se di importanza minore, o proposte all'operatore direttamente dal sistema quando si verifica un'anomalia nei tracciati di monitoraggio rispetto alla somministrazione. Un'automazione di questo tipo è un modo di gestire il rischio clinico, di ridurre ulteriormente il possibile errore che è sempre in agguato nelle attività umane. In termini economici naturalmente c'è anche un vantaggio, perché c'è un vantaggio diretto legato alla riduzione del tempo che si deve dedicare ad ogni persona da parte dell'operatore e poi anche i costi indiretti, perché se si riducono gli errori si riducono le azioni correttive che comunque hanno un costo e si potrebbe forse arrivare anche a un miglioramento dell'outcome clinico, nel senso che se faccio meno errori curo meglio gli ammalati. Curo meno. E poi c'è un vantaggio umano, sì, un vantaggio umano che io tengo molto, che è uno dei motori del progetto, che è quello che attualmente gli operatori sanitari sono impegnati in molti compiti ripetitivi, meccanicistici, che possono tranquillamente essere eseguiti da una macchina, anzi che una macchina può eseguire con maggiore accuratezza. Questo tempo non è un tempo che nella mia visione permetterà di ridurre le risorse necessarie, ma un tempo che permetterà di dedicare le risorse ad altri compiti. E quali sono questi altri compiti? Quelli che gli ammalati ci chiedono giustamente con sempre più insistenza. Il tempo del dialogo, il tempo dell'empatia, il tempo della comunicazione. Credo che liberare risorse per questa interazione sia fondamentale per contribuire direttamente all'eccellenza clinica. Fra il resto sono stati fatti studi recenti che hanno documentato che gli ammalati di un medico empatico hanno meno complicanze degli ammalati di un medico che non mette in atto l'empatia. Ma l'empatia è qualcosa di scientifico, non è una cosa che si improvvisa, è una cosa che si studia, c'è tutta una dottrina dietro il concetto di empatia. Un aspetto che mi sembra interessante di questa vicenda è che per l'ospedale regionale di Bolzano tutto ciò si trasformerà addirittura in una, chiamiamola così, in un'opportunità di business, nel senso che voi siete coinvolti direttamente nello sviluppo tecnologico. Sì, in questo caso è stata fatta una cosa un po' particolare. È stato fatto un accordo tra l'assessorato all'innovazione e al bilancio della nostra provincia, il comprensorio sanitario di Bolzano, rappresentato dal nostro direttore di comprensorio, per lo sviluppo congiunto di questo progetto. Ed è stata bandita una gara europea che poi è stata vinta da una ditta aggiudicataria, una società privata. Se la soluzione a cui arriveremo sarà giudicata valida e potrà essere commercializzata, i proventi della commercializzazione per i primi 5 anni dovranno essere restituiti dall'azienda che commercializzerà la soluzione, che è un privato a tutti gli effetti, dovranno essere restituiti per il 70% all'azienda sanitaria, al comprensorio di Bolzano, con il vincolo che questi fondi siano utilizzati per nuova ricerca e quindi realizzando quel circolo virtuoso per cui l'innovazione finanzia nuova innovazione. Per il momento ci fermiamo qui, ma domani sera torniamo con nuove buone pratiche sviluppate dal basso nel campo dei servizi pubblici e della pubblica amministrazione. Buona serata.